in primo piano. Giornali che anche oggi si dedicano prevalentemente alla politica, almeno nelle aperture dei quotidiani. La politica, c'è stato il discorso di Fini, le tensioni all'interno del Popolo della Libertà e poi l'inchiesta di Bari sulla sanità, le escort, insomma non ci si fa mancare nulla anche oggi in questo clima, come detto ieri, sicuramente avvelenato e anche ovviamente ricco di retroscena e strategie, complotti di cui parleremo e di cui parlano i giornali. Vediamo una rapida carrellata delle aperture dei giornali. Il Corriere della Sera anche oggi sicuramente in primo piano, lo vedremo, perché parla Marina Berlusconi. Io difendo mio padre. Un'interessante intervista che tra poco vedremo. E poi Repubblica, Berlusconi show sulle escort ieri alla conferenza stampa con Zapatero. Fini, nel Popolo della Libertà serve una svolta, titola così La Stampa, dunque le frizioni all'interno del partito di maggioranza. Il Giornale ancora contro Fini, Fini spara ma perde ancora colpi. Il Riformista è più diretto, il governo Fini. Abbastanza diretto, non c'è bisogno di ulteriori commenti. Il Manifesto, Fini a quando? Gioca ovviamente con le parole, con una foto in cui ci sono tutti gli esponenti del Popolo della Libertà in un recente convegno, tranne Fini, e appunto il titolo Fini a quando. E Povera Italia invece titola L'Unità, mette insieme Berlusconi e Zapatero con la battuta di Berlusconi: non ho mai pagato per una prestazione sessuale, il bello è la conquista. Insomma, i titoli sono di questo tenore, ovviamente delle aperture. Poi vedremo anche gli altri articoli. Ma come detto sul Corriere della Sera, parla Marina Berlusconi. Basta con la Dynasty, le nostre aziende meritano più rispetto. Un'intervista a Daniele Manca dopo un silenzio di questi mesi. Si parte proprio da lì, prova a partire da lì Daniele Manca, dalle voci di divorzio di Berlusconi Dynasty. Di queste cose non ho la minima intenzione di parlare, dice Marina Berlusconi, tanto meno sui giornali. Aspetti, allora, perché ha accettato la conversazione? Per dire che le 20.000 persone che lavorano qui, se consente, mi ci metto anch'io, meritano più rispetto. E poi Marina Berlusconi parla appunto da editore. Sulla televisione mio fratello Pier Silvio sta facendo un lavoro eccellente, non pretendiamo che ci dicano bravi, ma che a sinistra facciano un gran tifo per Sky, buffo, no? Se c'è di mezzo Berlusconi va bene anche saltare da Marx a Murdoch, l'importante è andargli sempre contro. E poi apre la questione attacchi della stampa. Per definire quanto hanno cercato di fare a mio padre in questi mesi mi vengono solo due aggettivi, indegno e vergognoso, dice Marina Berlusconi. Una cosa positiva però c'è, tutto questo ha dato ancora di più a me come figlia la misura della grandezza e della qualità umana di mio padre, dell'enorme distanza tra lui e chi ha cercato di distruggerlo in quel modo. E poi sulla libertà di stampa, questa poi di un'Italia dove la libertà di stampa è a rischio, dice Marina Berlusconi, a rischio in un paese in cui il capo del governo viene sottoposto per mesi a un vero e proprio linciaggio? So perfettamente quanto sia preziosa la libertà di stampa, non solo perché faccio l'editore. La questione è come e per quali scopi questa libertà viene usata. L'equazione scellerata, continua Marina Berlusconi, che certi giornali applicano è libertà uguale dare addosso a Berlusconi uguale essere costretti a pensarla come loro. E se la stragrande maggioranza degli italiani non è d'accordo vuol dire che sbaglia. Invece no, libertà vuol dire essere liberi di poterla pensare diversamente, senza per questo sentirsi dare del cecchino prezzolato. Si riferisce a Feltri, dice Daniele Manca, anche. Non sempre sono d'accordo con lui, ma oltre a essere un fuoriclasse assoluto del suo mestiere, è un esempio lampante di giornalismo libero. Infine conclude questa lunga intervista. A volte più che colpi sotto la cintura, quelli contro suo padre, dice, mi sono sembrati veri e propri tentativi di pugnalarlo alle spalle, ma per fortuna mio padre ha i riflessi pronti. Sicuramente l'intervista del giorno, quella a Marina Berlusconi, fatta da Daniele Manca sul Corriere della Sera. Dicevamo ieri il discorso di Fini, qualcuno dice lo strappo di Fini, il Giornale per esempio lo definisce già lo strappo di Gubbio, visto che era proprio a Gubbio che si è tenuto questo incontro pubblico. Prende ovviamente molti commenti, molte interviste, molte analisi sui giornali. Interessante per esempio La Stampa che intervista il coordinatore del Popolo della Libertà, vuol dire Sandro Bondi, che dice sull'intervento di Fini sbaglia dalla A alla Z. Il suo è un intervento privo di risposte solide, vere, sembra alla ricerca di motivi di distinzione, come se facesse un controcanto. È vero, dice più avanti Bondi, sul partito Fini non ha tutti i torti, si poteva fare di più, ma se non è stato fatto abbastanza la colpa è mia e degli altri coordinatori, non di Berlusconi. E poi però attacca: mi domando da cosa nascano le sue critiche, quelle al governo non le condivido, dalla A alla Z. Il governo sta facendo cose eccezionali, come affronta la crisi, le riforme della Gelmini e di Brunetta. Sembra quasi che Fini, ecco l'affondo di Bondi, sia appena tornato da un viaggio, che sia stato all'estero per sei mesi. Insomma, molto duro. Bondi, intervistato da Mattia Feltri su Fini, così come molto duro è Il Giornale, questo per vedere la posizione di Feltri. Sapete che già un paio di giorni fa Feltri è stato diretto, è stato il primo comunque a attaccare con una lettera pubblicata in prima pagina la posizione politica del presidente della Camera, e oggi ci ritorna Feltri. Fini spara ma perde ancora colpi, questa è l'apertura del Giornale. Scrive in un editoriale Feltri: da Gubbio a lui, a Fini, il nuovo partito va stretto, forse è addirittura antipatico, almeno come il suo leader. Non altro è emerso dal discorso tenuto dalla terza carica dello Stato. Probabilmente ancora irritato dal nostro articolo Galeotto, Fini si è sfogato. La politica del governo sull'immigrazione non gli garba, non c'è coerenza tra ciò che l'esecutivo annuncia di fare e quello che fa, non c'è democrazia nel partito, non è vero che punti al Quirinale, non è vero che sia un compagno, insomma, è tutto sbagliato. E all'interno ci sono due pagine dedicate proprio a Fini, a parte del Giornale, insomma, a dimostrazione che sicuramente le frizioni sono molto alte all'interno del PDL. Il compagno Fini spara sul centrodestra, e a pagina 5 addirittura: c'era una volta il dittatore del partito, Fini, il destino beffardo dell'ex leader di AN, dopo aver per anni guidato i suoi con piglio assolutista, ora lamenta l'assenza di collegialità nel PDL. Eppure lui stesso nel 90 divenne numero uno dell'MSI senza essere eletto. È dedicata a questo scontro anche l'editoriale di uno dei massimi analisti politici in Italia, Massimo Franco, l'apertura di pagina 1 del Corriere della Sera: Fini accusa contro di me un indegno stillicidio. E il titolo dell'editoriale di Franco è Il muro dell'incomprensione. Più che da contrasti politici, scrive Franco, Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini appaiono divisi da un muro di incomprensione lessicale, culturale, istituzionale e personale. Lo sfogo che ieri il presidente della Camera ha fatto davanti alla platea della scuola di formazione del PDL a Gubbio è stato impietoso, viscerale, esasperato, quasi volesse azzerare la tesi minimalista del malinteso, accreditata il giorno prima dal Premier. Insomma, muro dell'incomprensione e addirittura Repubblica va oltre. Claudio Tito, in prima pagina, l'apertura è più sulle escort, come detto, di Repubblica, Berlusconi show sulle escort. Ecco che spunta la tesi, o meglio rispunta, si rafforza la tesi del complotto. C'è un complotto per farmi fuori, è un retroscena, sono frasi attribuite a Berlusconi, anche se non pubbliche, ma insomma i retroscena sono un po' così. Inizio a pensare che c'è qualcosa di più di una semplice inchiesta, è in atto una manovra da contrastare subito, colpo su colpo. Lo spettro del complotto, scrive Tito, torna ad aleggiare su Palazzo Chigi. Silvio Berlusconi se n'è ormai convinto, ai fedelissimi ha confessato tutte le preoccupazioni centrate su una sequenza di episodi e un unico obiettivo: vogliono farmi fuori. Così scrive Claudio Tito, che poi continua evocando i soliti poteri forti. Come mai il Corriere è tornato a pubblicare quella rubaccia su Bari? Perché i giornali stranieri non si fermano un attimo? C'è una rete internazionale contro di me? Perché la Marcegaglia ha ripreso a dialogare con Epifani? Tutti interrogativi che stanno agitando i sonni del Premier, secondo Claudio Tito, e che vengono messi in connessione con un appuntamento considerato cruciale: la prossima decisione della Corte Costituzionale sul lodo Alfano. Dunque, secondo Claudio Tito su Repubblica, il sospetto del complotto ha preso vigore, tanto che, come detto, il Riformista è emblematico nel suo titolo: il governo Fini. Scrive c'è un breve editoriale non firmato, dunque si presume ascrivibile al direttore Antonio Polito del Riformista. Fini su Gubbio ha attaccato Berlusconi, ricordandogli che il dibattito interno e le visioni alternative non possono essere considerate lesa maestà. Ha demolito il ruolo della Lega, ha evocato dubbi su Giulio Tremonti e l'efficacia dell'azione del governo contro la crisi economica. Ha chiesto una conta sul biotestamento e le questioni di laicità, un discorso d'opposizione, non c'è altro modo di definirlo. Anziché spiegare a Berlusconi come si governa un partito, Fini ha voluto offrirgli un promemoria su come, dal suo punto di vista, si dovrebbe governare l'Italia. E all'interno di queste scene complottiste, addirittura a pagina 3 Stefano Cappellini va oltre un'intera pagina. Intanto Montezemolo si prepara. Ma non sono l'uomo dei poteri forti, scrive Cappellini. Il mio ruolo non è quello di salvatore della patria, di super tecnico al servizio dei poteri forti. Così diceva ieri Luca Cordero di Montezemolo a un amico curioso di sapere quanto di concreto vi sia tutto questo gran parlare di Montezemolo e della sua ascesa in campo. Però più avanti, dice Cappellini, scrive, l'innesco del piano montezemoliano resta la chiamata. Non c'è l'intenzione di fondare partiti sul modello di Forza Italia, né di aderire a quelli altrui. Il numero uno di Fiat pensa piuttosto di poter mettere a disposizione la sua candidatura alla premiership, nella convinzione che i principali oppositori di Berlusconi debbano quantomeno prenderla in considerazione, perché né Pierluigi Bersani né Pier Ferdinando Casini appaiono oggi nomi spendibili per la corsa a Palazzo Chigi. Insomma, di retroscena politici, come vedete, ne trovate tanti sui giornali, come di approfondimenti sulle inchieste. L'inchiesta di Bari, l'inchiesta sulla sanità, le vicende sulle escort, le battute ieri di Berlusconi, certamente, con Zapatero, quando ha risposto in maniera molto dura un giornalista del Paese. Per esempio, su Bari, i verbali pubblicati dal Corriere della Sera un paio di giorni fa, dicevamo ieri di alcuni parlamentari coinvolti, la stampa con Guido Ruotolo oggi fa i nomi. Nomi presunti, per carità, però ecco come inizia Guido Ruotolo sulla stampa. Un tris di parlamentari nell'affare Tarantini. Salvatore Mazzaracchio, ex assessore regionale alla sanità del PDL. Ambrosio Lettieri, ex presidente dell'Ordine dei Farmacisti, oggi parlamentare del PDL. Alberto Tedesco, ex assessore alla sanità della Regione Puglia, senatore del PD. Sarebbero questi i nomi dei parlamentari coinvolti nella mala sanità in Puglia. Ci sono le repliche sotto di Tedesco, che si era già dimesso sull'onda dello scandalo in Regione ed è andato al Senato. Non posso dimettermi per professione, dice. Luigi Lettieri replica, barbarie politica, io sono fuori da tutto questo. E Salvatore Mazzaracchio, io sono tranquillissimo, non ho ricevuto avvisi di garanzia. Però certo i nomi sono già sui giornali. Così come Alberto Tedesco fa un'intervista all'Unità. Alberto Tedesco, appunto, ex assessore, ora senatore e secondo Guido Ruotolo, uno dei tre parlamentari coinvolti. Innanzitutto risponde al sindaco di Bari Emiliano, che aveva detto via dal PD chi non è degno di restarci. Siamo al paradosso, dice Emiliano, dice Tedesco. Si difende Berlusconi e si mette la croce addosso a chi lo stato delle cose non è indagato. Mi riferisco a Frisullo. Frisullo è l'ex vicepresidente della regione che, secondo i verbali di Tarantini, avrebbe anche lui usufruito delle escort. C'è stato un rapporto con delle signore, dice effettivamente Tedesco, ma non c'è traccia di un nesso con eventuali favori fatti a Tarantini. È stato solo un atto di debolezza. Per quel che riguarda se stesso, Tedesco alla domanda «Lei è indagato, come la mette?» «Sì, ma non ho ancora ricevuto gli elementi e non ho avuto il piacere di riconoscere e conoscere i fatti». Ma insomma, si dimette o no? Certo che no. Mi sono già dimesso da assessore alla sanità appena saputo dell'indagine, non sono indagato per atti compiuti nella mia funzione di parlamentare. Sempre per chiudere questa vicenda, l'apertura di Libero, D'Alema cena tra gli indagati. Secondo quello che scrive in realtà Panorama, ma che oggi è ripreso da Libero, Il proprietario del ristorante di Bari, dove ci fu questa cena in cui D'Alema dice sono arrivato, ho fatto un mordi e fugge, sono andato subito via e c'era anche Tarantini, secondo invece il proprietario del ristorante di Bari, l'ex ministro degli esteri era accomodato tra Tarantini e la dirigente ASL sotto inchiesta per gli appalti. Dunque una cena anche questa che farà discutere, e infatti c'è un editoriale di Mario Giordano, le fave indigeste dello smemorato Max Massimo D'Alema. Sul Sole 24 Ore l'apertura è dedicata a questo riassetto importante nel mondo mondiale dell'auto. General Motors, GM vende Opel a Magna. L'annuncio della Merkel, il 10% andrà ai dipendenti. Questa è anche una notizia molto interessante. Ci sono ovviamente tutti i retroscena dell'accordo annunciato da Angela Merkel. E c'è però, lo voglio ricordare, un editoriale importante del direttore del Sole 24 Ore Gianni Riotta, anche perché oggi è l'11 settembre, ce ne siamo scordati forse. È vero, sono passati 8 anni, il mondo cambia, e infatti il titolo dell'editoriale di Gianni Riotta è proprio questo: c'era una volta il mondo gentile delle Twin Towers. È molto concentrato su come sia cambiato appunto quel mondo. Niente a New York è come 8 anni fa, scrive infatti Riotta. Il sindaco ha piazzato le seggiole su Broadway giù fino a Times Square, trasformando il centro del mondo in una paciosa piazza di paese. Sulla vecchia ferrovia sopraelevata High Line, che serviva dal 34 ai 250 mattatoi urbani, c'è un giardino pensile che ingentilisce le putrelle del secolo di ferro, il Novecento, coi fiori selvatici e l'erba aromatica di un ventunesimo secolo appena sbocciato. E più avanti, il mondo è così cambiato che i ragazzini delle scuole, accompagnati da mamma e papà commossi, quando toccherà loro studiarlo al liceo, resteranno sbalorditi. La breve solidarietà svanì presto nelle rigidità ideologiche dei falchi intellettuali di Bush e del suo vice, il duro Cheney, sporcata dalla difesa della tortura del giurista John Yoo e degenerata poi nel carcere di Abu Ghraib. Ma con che fretta si sono smarrite le posticce supremazie morali contro gli Yankee, Chirac sostituito da Sarkozy l'American, il cancelliere Schröder ridotto a lobbista per il petrolio russo di Putin, i cinesi intenti a sostenere dittatori dalla Birmania al Sudan, le Nazioni Unite paralizzate dalla burocrazia di Ban Ki-moon e con antisemiti, oppressori e tiranni a spartirsi poltrone. Insomma, un mondo molto diverso, un ricordo molto interessante quello di Gianni Riotta. C'era una volta il mondo gentile delle Twin Towers sul Sole 24 Ore. Sempre restando sul Sole 24 Ore, un'importante notizia che trovate su tutti i giornali, sul Sole 24 Ore ovviamente analizzata con maggiore profondità: i bot a tasso zero. È una cosa che ha molto colpito, rendimento sotto zero per i bot, secondo i dati forniti dall'Associazione Italiana Operatori Mercati dei Capitali. Sostanzialmente nell'asta dei buoni ordinari del Tesoro, a 3 mesi di ieri, si è verificato un caso paradossale, spiega bene Sole 24 Ore, cioè un investitore al netto delle commissioni di banche e tasse non solo non ha guadagnato nulla, ma ha eroso il capitale. Vediamo come. Meno 0,08% la spiegazione di come sia stata possibile questo rendimento sotto zero per i bot. Vogliamo arrivare a qualche segnalazione interessante e curiosa. Rimaniamo in qualche modo nell'economia. La storia la rivela il Corriere della Sera. Calisto Tanzi, dopo il crack, è ancora cavaliere del lavoro. Sono passati quasi 6 anni, scrive Mario Gerevini, dal crack Parmalat, un buco da 15 miliardi. Lui, Tanzi, ha ammesso molte responsabilità. 9 mesi fa è stato condannato in primo grado a Milano a 10 anni per aggiotaggio e ostacolo alle attività di vigilanza. Parma ha patteggiato 2 anni per bancarotta Eurolat. Il cavalier Calisto. Cavaliere? Sì. Per lo Stato italiano Tanzi è tuttora degno del titolo del Cavaliere del Lavoro. Non gli è stata revocata né la pratica e né a quanto pare è stata avviata. Il suo nome, insieme a quello di migliaia di italiani benemeriti, compare negli elenchi tenuti in continuo aggiornamento dalla Presidenza della Repubblica. Non c'è male come storia, farà sicuramente arrabbiare, emblematica. Calisto Tanzi è ancora Cavaliere del Lavoro. Altre segnalazioni molto interessanti. Ci sono 2 spunti sulla TV. Innanzitutto sulla TV, sulla potenza della TV. Franceschini guarda Videocracy. Videocracy è quel documentario, docufiction, che ha fatto arrabbiare alcuni. È in programma a Venezia, del regista italo-svedese Eric Gandini. questo documentario sul potere della TV degli ultimi 30 anni, Aldo Cazzullo guarda Videocracy insieme a Franceschini, il leader del PD. Scorrono le immagini. Ora capisco perché la RAI ha rifiutato persino il trailer, dice Franceschini. La questione è sociale, economica. Il film racconta come negli ultimi 30 anni sia stata sovvertita la gerarchia dei valori. Dice Franceschini, viene trasmessa l'idea che studiare e sacrificarsi sia del tutto inutile. E poi ancora la proposta a questo punto di Franceschini. Ecco cosa si potrebbe fare. Sospendiamo le rilevazioni dell'Auditel per i programmi di informazione, dai telegiornali ai talk show. Che senso ha misurare chi ha vinto la gara dei TG? Il criterio della quantità è a scapito della qualità e trascina tutti verso il basso. Di questo passo rivedremo Corona nudo sotto la doccia ogni sera. Lo share salirebbe. Il riferimento ovviamente è una delle scene di Videocracy in cui si vede appunto Fabrizio Corona nudo sotto la doccia. L'altra notizia sulla TV, giusto per chiudere, è su Repubblica. Rinvii e direzione sotto scacco, un'intera pagina di Goffredo De Marchis. Ecco l'editto soft che vuole svuotare Rai 3. Ieri parlavamo dell'intervista di Santoro, c'è il caso Gabanelli, Report, c'è il contratto in ritardo per Fabio Fazio. Insomma, secondo Repubblica c'è un tentativo di depotenziare vari conduttori e vari programmi considerati scomodi su Rai 3. Mi fermo qui ricordando che c'è il sondaggio al quale potete, dovete rispondere su radio24.it o ilsole24ore.com. Ci chiediamo questo, il Vaticano ha chiesto sostanzialmente con la Congregazione per l'Educazione Cattolica che l'insegnamento della religione nelle scuole abbia lo status di disciplina scolastica a tutti gli effetti, equiparata cioè alla matematica, all'italiano. Che ne pensate di questo? Siete d'accordo oppure no? Potete anche chiamare all'800 24 00 24 per intervenire in diretta dalle 8.30 alle 9.